action begins. Each day climbs a line for the half dozen limbs. Messaggio promozionale a scopo educativo. Hai già richiesto il patentino del buon cittadino? Il patentino del buon cittadino, o PDBC, è il nuovo metodo di riconoscimento e tracciamento che permette di sapere, direttamente sullo smartphone, lo stato di salute, il credo religioso, l'orientamento sessuale e le idee politiche tue e di chi ti sta accanto. Ti notifica immediatamente se non sei conforme ed è costantemente aggiornato per renderti libero di fare sempre la scelta corretta. Col patentino del buon cittadino basta un click per essere a norma. È una campagna di disumanizzazione. Messaggio promozionale a scopo educativo. Sapevi che, una volta nati, gli esseri viventi possono ammalarsi o morire in ogni momento? Ma grazie a Zero Vita, il programma di tutela e copertura del rischio correlato all'esistenza, non dovrai più temere niente. Con Zero Vita ti proteggi da tutti i pericoli del vivere in modo naturale. Zero Vita ti garantisce 80 anni di sopravvivenza e con l'opzione fine sicura potrai scegliere data e ora del tuo decesso. Se vuoi zero rischi, allora Zero Vita. Prima della sottoscrizione leggere il prospetto informativo. È una campagna di disumanizzazione. Un saluto a tutti e a tutte le ascoltatrici di Zartins Magnetics. E questa sera vi volevo parlare, tornare a parlare insomma del carcere, che è argomento centrale, questione centrale dell'assemblea appunto contro il carcere e la repressione che cura questo programma. E lo faccio a partire dagli ultimi eventi, dalle ultime dalle ultime notizie, insomma, sul carcere, dall'ultimo cancan mediatico seguito alle varie inchieste che si stanno svolgendo a un anno di distanza, insomma, circa dai fatti, cioè delle diverse mattanze, repressioni, pestaggi, torture che sono state eseguite nelle carceri italiane per reprimere, terrorizzare i detenuti quando vi è stato quel moto di rivolta violenta e protesta, a tratti anche protesta non conforme violente, non conforme rivoltose, nelle carceri italiane durante il lockdown primaverile di un anno fa, insomma, quando eravamo tutti domiciliati a casa dai provvedimenti del governo Conte, e in Italia i detenuti a seguito dell'ulteriore pressione sulla loro condizione, con il divieto di colloqui e naturalmente in preda alla paura del diffondersi del virus nelle carceri, come poi è effettivamente avvenuto, si sono rivoltati e oppure hanno attuato altre forme di protesta. E abbiamo visto salire al clamore mediatico il caso di Santa Maria Capua Vetere, dei pestaggi da parte della penitenziaria. Abbiamo visto l'intervento di Draghi e della ministra Cartabia, un intervento che è stato definito, insomma, per certi versi inedito, insomma, strano, forte sul carcere, addirittura con una visita in pompa magna da parte dei due al carcere di Santa Maria Capua Vetere, abbiamo sentito spendersi parole grandi parole sulla condizione carceraria, sulla necessità della dignità del detenuto, e su episodi che non si devono verificare più, eccetera eccetera, ecco. Cosa stia dietro a tutto questo? Vabbè, insomma, secondo il sottoscritto vi è l'intenzione di blindare una riforma della giustizia, che di creare un clima politico, anche ideologico, ideale, se vogliamo, alla conduzione di una riforma della giustizia, accentrandone, insomma, la responsabilità nell'esecutivo e portando avanti quella che è una finalità di velocizzazione dei processi, che sta ad esempio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso Recovery Plan, per cui, insomma, sono stati anche stanziati anche per questa voce i famosi circa 200 miliardi da parte dell'Unione Europea, ecco. E poi, insomma, vi sono tutta una serie di vicende comunque legate, per cui, insomma, le conflittualità tra corpi dello Stato, magistratura, polizia penitenziaria, Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia, tutta una serie di contraddizioni. Pensiamo alla vicenda Palamara e a tutte altre vicende che hanno toccato la magistratura. Pensiamo al fatto, al riemergere della proposta di divisione delle carriere tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti, per cui attualmente la Lega e i radicali stanno portando avanti il referendum. Pensiamo alle riforme prospettate dai 5 Stelle, con più potere alle guardie penitenziarie rispetto al direttore delle carceri, insomma, tutta una serie di contraddizioni che nell'ultimo periodo hanno segnato anche il mondo della giustizia e il mondo delle carceri, che vi è strettamente correlato se non interno. Ecco. Da questo punto di vista un grande polverone mediatico non serviva per cambiare le cose dentro le carceri, che sono rimaste assolutamente tale e quali, anzi con una pietra buttata sul massacro di Modena, una pietra giudiziaria che finora sembra buttata su quel massacro, il massacro più grosso, e con l'archiviazione, almeno per la maggior parte, delle morti, degli omicidi, anzi di Stato, e serviva questo can-can, insomma, che il governo Draghi ha messo in piedi. D'altronde, insomma, in epoca di emergenzialismo, perché non sfruttare anche in un certo senso quelle che sono le emergenze reali, come la condizione dei detenuti, per trasformarle in emergenzialismo, blindare i processi politici, un po' come si dice emergenza sanitaria, ma che poi a livello sanitario non serve nulla, serve all'ordine pubblico, serve a reprimere, a disciplinare, eccetera. Come emergenza nelle carceri, per i carcerati questa proclamata emergenza non sta servendo a nulla, serve ad equilibri politici, ad equilibri di potere. Ecco, si parlava poc'anzi del clima politico e mediatico che ultimamente nel nostro paese ha riscoperto la questione del carcere, e a seguito delle inchieste e delle immagini anche diffuse rispetto a queste inchieste correlate, in particolare riguardo ai pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nella primavera dello scorso anno, no? Quindi, e durante le rivolte o proteste da parte dei detenuti all'interno delle galere italiane, più di 20 episodi, tra cui, insomma, ricordiamo Modena soffocata nel sangue. E si diceva dei grandi paroloni, no? Spesi dai signori Draghi e Cartabia in merito. Ebbene sì, si parla di tortura, si parla di processi di tortura, per tortura contro i secondini aguzzini di Santa Maria Capua Vetere, e c'è una tortura nelle carceri italiane che però è perfettamente legalizzata, scientemente applicata, giuridicamente definita, rifinita, se vogliamo, che è la tortura del 41 bis, definita la tortura bianca, perché è una tortura che non lascia sangue, non lascia lividi, non lascia botte, ed è la tortura dell'isolamento. Ecco, questa tortura, di questa tortura Draghi e Cartabia non parlano, non hanno parlato, anzi Cartabia, quando vi ha parlato, ha ribadito la valenza del 41 bis, ad esempio rispetto ai benefici per i detenuti che vi sono sottoposti. Ecco, cosa vuol dire 41 bis per chi non lo sapesse? 41 bis vuol dire isolamento per 23 ore al giorno, soltanto nell'ora d'aria è possibile incontrare altri prigionieri, al massimo 3 persone, solo con questi è possibile parlare, colloquio con i soli familiari diretti, un'ora al mese, e il contatto fisico è impedito per mezzo di vetri, telecamere e citofoni. E tra l'altro questa modalità di contatto è stata quella che è stata introdotta nelle carceri anche a seguito dell'epidemia, invece di un provvedimento di indulto, di amnistia, come si è attuato in altri paesi, tra cui insomma paesi a cui l'Italia insomma dà lezioni di diritti umani come l'Iran eccetera e altri, e qui anche a seguito delle rivolte si è preferito introdurre queste misure e massacrare ovviamente, pestare, torturare eccetera. Esclusione a priori dell'accesso ai benefici, come si diceva, processo in videoconferenza, l'imputato detenuto segue il processo da solo in una cella attrezzata del carcere tramite un collegamento video gestito a discrezione da giudici, PM, forza dell'ordine, quindi privato della possibilità di essere in aula. All'interno delle carceri vengono utilizzati invece che la guardia penitenziaria normale, i gruppi operativi mobili, gruppo speciale della polizia penitenziaria, e che è insomma noto per la sua violenza, istituito tra l'altro nel 99 da Diliberto, comunisti italiani, il cosiddetto Partito dei Comunisti Italiani, durante il governo D'Alema, ecco, un altro stemmino, un'altra medaglietta ai nipoti del traditore Togliatti, del PC, insomma, di quello che si è dimostrato da sempre con tutta la sua classe dirigente come pienamente organico al sistema repressivo e controrivoluzionario dello Stato borghese in Italia. La censura e la limitazione della posta, il divieto di ricevere libri, stampe e riviste dall'esterno. Ecco, di base il 41 bis ha una durata di 4 anni e prorogabile per ulteriori 2 anni, potenzialmente all'infinito. Quindi, da come si esce il 41 bis? Si esce sulla base della finalità del 41 bis, in teoria. La finalità del 41 bis è spezzare il legame che ha il detenuto all'esterno, si dice in particolare per coloro che vi sono, per i mafiosi, per accusati di associazione mafiosa, o per associazione terroristica. Ricordiamo che dal 2002 sono anche sottoponibili al 41 bis i cosiddetti terroristi. E quindi si esce spezzando questo legame, e spezzare questo legame vuol dire dimostrare di non farvi parte, e questo dimostrare di non farvi parte vuol dire insomma accettare nella stragrande maggioranza dei casi la collaborazione di giustizia, cioè il pentitismo, l'infamia, lo spifferamento di nomi, mettersi al servizio di procure per inchieste eccetera eccetera. Questo è il 41 bis, la tortura, estolcere atti di collaborazione, di sottomissione allo Stato, con pena l'isolamento, la prosecuzione dell'isolamento, la distruzione psicofisica del detenuto. 41 bis è tortura, insomma. Ecco, si parlava di 41 bis, come dimostrazione del fatto che nonostante tutte le parole di Cartabia, di Draghi, il carcere rimane sempre quello alla fine. Quella tortura legalizzata rimane lì, non è la tortura eccezionale che le guardie penitenziarie di Santa Maria Capua Vetere attuano contro i detenuti che hanno protestato, e la tortura legalizzata, fondata strutturalmente, giuridicamente nelle carceri italiane. È una tortura che, al di là dell'applicazione ai mafiosi, categoria in sé che possiamo deprecare, ma che rappresentano insomma dei prigionieri, è una realtà sociale del nostro paese, insomma la mafia è una forma di capitalismo illegale, come in tante altre zone depresse economicamente, si forma, ha dei confini molto labili spesso inesistenti col capitalismo legale, e trova la sua valorizzazione nell'illegalità, e quindi ha una dimensione del carcere che è inevitabile. Questo è la mafia. La mafia affrontabile, se vogliamo, con la lotta di classe, come tutte le altre forme di capitalismo. Il carcere del capitalismo, il carcere come struttura di una società divisa in classi, non rappresenta assolutamente la lotta alla mafia. E rappresenta una struttura, un meccanismo di gestione delle contraddizioni sociali tra cui la mafia, ma anche della loro perpetuazione, queste contraddizioni, ovviamente, di cui la mafia è una delle contraddizioni, se vogliamo, principali nella storia della società italiana, ecco, della borghesia, della classe dominante italiana, è parte, insomma, integrante. Quindi quando si parla di 41 bis, per molti la questione diventa delicata, diventa, come dire, scottante. Vabbè, ci sono i mafiosi, ma ci sono anche tre compagni: Marco Mezzazalma, Mario Moranti e Nadia Lioce, una compagna al 41 bis a Rebibbia, è stata trovata impiccata nel 2009, Diana Befari Melazzi. Sono tutti compagni di Anna Loera, militanti delle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente. E Mario e Marco sono sottoposti al 41 bis, pensate, da 18 anni. Ecco, ultimamente è stata la sentenza di Cassazione che ha confermato questo regime di tortura per Nadia Lioce. Ecco, già questo ci dovrebbe fare effetto in un certo senso, in un'altra maniera, per 41 bis. E infatti il 41 bis informa l'intero sistema penitenziario italiano, con la differenziazione e l'isolamento che è stato applicato quando sono stati arresti anche tra i notabili, quindi anche a lotte, militanti di lotte popolari, sono stati sottoposti a forme di isolamento. Con forme di isolamento e di differenziazione si colpiscono gli anarchici quando vengono arrestati per i reati associativi, nelle inchieste per terrorismo, con i moduli di alta sicurezza, 1, 2. Il regime del 41 bis è l'apice di un sistema di differenziazione che governa l'universo del carcere, così come il carcere fuori è massima deterrenza per appunto gestire le contraddizioni sociali che assumono talvolta anche la forma di lotta di classe. All'interno delle carceri la differenziazione, l'isolamento, la pressione del 41 bis è la massima deterrenza, e poi a scorrere tutti i gironi dell'inferno, ecco, fino ad arrivare alle carceri per comuni, alle carceri, insomma, più per forme anche di marginalità sociale, eccetera. E questo è il dato che abbiamo di fondo. Quindi essere la posizione di chi lotta contro il carcere ma non nomina il 41 bis, o la posizione di chi come la posizione di chi lotta in generale contro questo sistema e non nomina il carcere, sono delle posizioni che francamente non hanno poca concretezza, perché la formula dell'isolamento, della pressione, della differenziazione, in cui il 41 bis è l'apice, è la formula che è stata trovata nelle carceri della borghesia imperialista italiana o in altre classi dominanti. Pensiamo ai blocchi H nell'Irlanda occupata, alle celle di tipo F in Turchia, ai FIES in Spagna. È stata trovata per gestire l'universo carcerario, per colpire spesso l'avanguardia rivoluzionaria. E la mafia è il classico soggetto indifendibile, come lo sono su altre questioni, sulla questione dell'ordine pubblico, mettiamo gli ultras, cui sono state sperimentate tutta una forma di misure di procedura penale e di penale, che poi sono state estese anche ai movimenti di lotta sulla sorveglianza informatica, i pedofili, le reti di pedofili, e poi naturalmente però la sorveglianza di massa viene estesa a tutti e a tutte. Ecco, questo è il meccanismo dell'emergenzialismo tipico che passa anche nella società fuori e dentro le carceri. Sì, si diceva del 41 bis, ecco, come strumento istituzionalizzato di tortura, al di là di tutta l'ipocrisia spesa ultimamente da Draghi e Cartabia sul carcere. Ecco. E sul 41 bis, in merito al 41 bis, ci tenevo a ricordare un detenuto, Alessio Attanasio. Alessio Attanasio è un detenuto dal 2001, deve scontare 28 anni e 6 mesi da quello che mi risulta, è nato il 16 luglio del 1970, è sottoposto al regime del 41 bis dal 2002, ecco, quindi anche per lui moltissimi anni, 19 anni. E detenuto in mafia, sì, da quello che si legge in rete, un clan di Siracusa, ma soprattutto Alessio Attanasio e soprattutto oggi nelle carceri, non mi interessa cosa abbia fatto prima nella sua vita, eccetera. Alessio Attanasio è un detenuto, un prigioniero che combatte per i suoi diritti, per la sua vita, per vivere quantomeno con dignità, non con tortura, la carcerazione, ecco. E molto odiato da secondini, da direttori. Sul sito storiepoliziapenitenziaria.it, potete andare a vedere, è definito come un bastardo rinchiuso al 41 bis, un detenuto rompicoglioni, di quelli che fanno casino ogni cosa, un maledetto criminale. Questi sono gli epiteti che i signorini della polizia penitenziaria gli attribuiscono, e già questo valgono a definirlo evidentemente un detenuto cosciente che lotta, che fa valere quello che anche a livello di legge in teoria lì deve spettare, insomma, uno che all'interno del carcere rompe le balle, si fa valere. Ecco. Lui era detenuto a Tolmezzo, l'abbiamo conosciuto perché era detenuto a Tolmezzo per i presidi che abbiamo fatto fuori dal carcere di Tolmezzo. Tra l'altro Tolmezzo ha denunciato la direttrice Irene Iannucci per la diffusione dell'epidemia, che ha portato anche alla morte di un detenuto di Tolmezzo nel 2020, e conduce queste battaglie, ecco, nel senso anche per sé, per gli altri detenuti. E lui ci ha scritto diverse volte e ci sono arrivate, insomma, vi raccomandate, alla fine è riuscito a farci arrivare i provvedimenti di censura sul 41 bis per addirittura 7 sue missive provenienti dal carcere di Novara, in cui attualmente è detenuto. Ecco, da qua si vede, insomma, la valenza di tortura e il fatto che il 41 bis vuole uccidere la persona, vuole uccidere l'individuo, vuole piegare. È chiaro che un mafioso, cioè è chiaro che qua non sta scrivendo l'associazione mafiosa, no? Cioè qua non è il rapporto con, se c'è anche, cioè nel senso, fa ridere questa storia qua, nel senso che sia censurato il rapporto tra noi e lui e come assemblea permanente contro il carcere e la repressione, cioè con motivazioni di pericolosità sociale, eccetera. Qua la pericolosità sta nel fatto che noi come lui lottiamo contro le carceri, lui più di noi lo fa da dentro, e insomma qua hanno poco da dire, che c'è da rompere i legami con il suo clan, se, ci fosse, se, ammesso che ci sono ancora questi legami, che fa ridere, insomma, dopo questi decenni di prigionia, cioè fa ridere di per sé, ma fa ridere o piangere, ma proprio in questo caso si vede come il 41 bis è censura, censura volta al governo delle carceri, a chiudere le contraddizioni, a isolare il detenuto, a chiudere le contraddizioni delle carceri. Insomma, una piccola realtà come la nostra non si permette la comunicazione con un detenuto che all'interno appunto fa valere la propria condizione, i propri diritti, eccetera. Insomma, nel senso, agisce anche sul piano legale, nel senso. E questo è il 41 bis. Ecco, siccome questi sono degli ottusi, censurano tutto e hanno le loro procedure, eccetera. Lui c'è scritto appunto 7 missive tra marzo e aprile, tutte censurate. Ci sono arrivati i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza di Novara. Ecco, io volevo concludere questo intervento. Cioè, lui dice, nel senso, vediamo chi si stanca prima, c'è scritto. Invito tutti e tutte a scriverli, ecco, semplicemente questo, far lavorare questi censori, quantomeno li facciamo lavorare, li tormentiamo un po' per rivendicare il fatto che il prigioniero, carcere dal 2002, possa comunicare, scambiare delle vedute, delle opinioni, far sapere cosa fa, come lotta, come sta, eccetera, con chi sta all'esterno, ecco. E loro ci censurano e noi facciamo lavorare questi orridi censori, questi ottusi e orridi censori. Ecco, vi dico il suo indirizzo. Allora, lui è Alessio Attanasio, con due T, ripeto, Alessio Attanasio, carcere di Novara, via Sforzesca 49, 2800 Novara. Allora, ripeto, lui è Alessio Attanasio, con due T, carcere di Novara, via Sforzesca 49 2800 Novara, carcere di Novara, via Sforzesca 49 2800 Novara. Ecco, se non avete capito bene, potete riascoltare il programma, potete guardare su internet, trovate insomma comunque il suo indirizzo, l'indirizzo del carcere di Novara. Scriveteli qualcuna cartolina, eccetera, per dire, cioè, per dire basta isolamento, basta tortura, per dire ipocrisia di Draghi Cantabria, cioè. La tortura c'è nelle carceri italiane e principalmente, oltre alle bastonate qua e là e ai pestaggi secondini, si chiama 41 bis. Ciao ciao a tutti e tutte, grazie dell'attenzione. Messaggio promozionale a scopo educativo. Ancora nel 2021 perdi tempo a pensare? Basta pensare! C'è l'algoritmo che pensa per te. Pensare è una roba da vecchi esseri umani. Con l'algoritmo invece puoi delegare ogni tua scelta, perché l'algoritmo sa prevedere e indirizzare ogni tuo comportamento. L'algoritmo è con te in ogni istante. L'algoritmo ti sorveglia sempre. Così tu dovrai solo occuparti di sopravvivere e non pensare mai più, fino a quando non morirai. Basta pensare. C'è l'algoritmo. È una campagna di disumanizzazione. No. Claudazzo, chi scrive poesie. E sono sicuro che questa non è una poesia. È la storia di un treno. E sono sicuro che su quel treno era un barbone, un emigrante, un operaio, una studentessa e un pare de famea. E sono sicuro che al barbone, alla metà, cencia di, cencia che avevi, e al rite al vai. E non va da nessuna banda e non ha nessuna valigia. E sono sicuro che l'emigrante ha 53 anni, aveva la Germania, e sono sicuro che in Sicilia e in tala valigia la sedia reticolata. E sono sicuro che l'operaio lavora alla Romeo, e sono sicuro che ha la 42 anni, in tala valigia l'ultima par. E sono sicuro che la studentessa è smitante piega e ha 17 anni. E sono sicuro che cavaliere di Roma e in tala valigia la macchina fotografica. E sono sicuro che il padre di famiglia, gli occhiali, 62 anni, una volta pari, in tala valigia la cena per i suoi rondinini. E sono sicuro che stanno spietando Alc. E ride. E il treno ride. E Vitalis ride. E la democrazia platata sotto Ignarius, come sempre, a ride. Oh! you ain't leading but two things right now, Jack and shit. Jack left town. Messaggio promozionale a scopo educativo. Uff, il mondo è complesso. Dovrei studiare e informarmi per capirlo meglio. Ma va, basta seguire il pensiero unico. Cioè? Col pensiero unico, tutto ciò che devi sapere viene filtrato, controllato e riassunto da esperti. Ma non si rischia la censura? Ma no, non dar retta a quelli come ma sì o bio. Non esiste censura nel libero mercato. Ascolta me, pensiero unico e non ci pensi più. Pensiero unico. Sicuro. È unico. È una campagna di Messaggio promozionale a scopo educativo. Ti fideresti di un prodotto non certificato? È per questo che è nato il bollino verde. Il bollino verde è la soluzione definitiva e obbligatoria per una circolazione sicura ed affidabile del capitale umano a disposizione sul mercato. Garantisce che i corpi vengano allevati, controllati e selezionati secondo gli standard scientifici più moderni ed ha validità annuale per stare sempre al passo con le innovazioni del progresso. Col bollino verde c'è solo il meglio per il nostro futuro. È una campagna di disumanizzazione. C'è Romy in quater col Padula e Rudolf e Gaina e poi mi quater amis, quater malnat. Vengo su insieme a compagni di gatti e fa la guerra in Albania per su in montagna a Ciapairat Neger Tudesk della Vermat me fai morire d'uma pensac cancata su in un'imbuscada ogni pesciat è una fusilada mami 40 di 40 notti a San Vitor, a Ciapaibot, dormi de can, pien de mala. Mami, 40 di 40 not, sbattu de su, sbattu de giò, mi son de quei che parle no. El commissarina mattina me manda a chiamarli per lì, noi siamo a ca, non sente alcun, el me diceva sto bruttero, el me diceva li tuoi compari, noi li pigliasse senza de te, ma se parlasse io firma ca, il tuo condono la libertà. Fesso tu sei, saresti contento di stare solo, chiusa qua dentro. Mami, 40 di 40 not, a San Vitura c'ha paibot, dormi de can, pien de malar. Mami, 40. Buonasera a chi è in ascolto, volevo ricordarvi, mentre andiamo in onda in differita anche oggi, giovedì 29 luglio, che siete in ascolto di Zardins Magnetics, che è un programma da alcuni anni curato dall'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione, che sul solco della tradizione ultradecennale di questo programma si propone di dare voce a chi non ce l'ha, di fare controinformazione e di proporre uno sguardo di critica radicale alla società. Vi voglio ricordare ancora una volta un fatto molto grave, e cioè che alcune curatrici e curatori di questo programma si trovano sotto processo per reati di opinione, e cioè per aver espresso solidarietà nel corso di un corteo in merito ad alcuni attacchi contro Unicredit e a una sede della Lega Nord, per aver sostenuto i detenuti che protestavano contro la carenza o la mancanza di cure sanitarie nel carcere di Via Spalato, e infine per una querela ritorsiva della dottoressa Angela Bravo, che è referente sanitaria di quel carcere. Non solo, voglio ricordare anche che ci sarebbe tuttora in corso un'indagine riguardo dichiarazioni svolte su queste frequenze in merito a fatti storici risalenti agli anni 70. Ho di nuovo ripetuto questa situazione per svelare retroscena e quinte, e quindi con la volontà e la consapevolezza di dire la verità e rischiarne le conseguenze. E in questi nostri interventi di approfondimento su Zardins Magnetics, da parte nostra si cerca di inquadrare le argomentazioni, le notizie, di inquadrare le considerazioni anche più generali dentro una cornice che per me è anche un'idea guida, la cornice della critica radicale della società penale. Il pensiero critico è rivoluzionario perché fa emergere dalle cose esistenti, positive, la loro negazione e dunque la necessità della loro distruzione. Il pensiero critico, cioè, rivela come il tempo presente sia sempre un tempo transitorio ed è pertanto sempre fonte di scandalo per i centri del potere. Esercitare il pensiero critico significa per noi rivelare e cogliere, a partire da testimonianze o esperienze individuali, una serie di relazioni interne riferibili a una cultura intesa come risultato o esito di scelte o rifiuti operati su uno stesso territorio comune o su una stessa condizione, confine su uno stesso contesto storico. Il contributo di cui darò lettura questa sera a Zardins Magnetics è una autobiografia scritta da dietro le sbarre e nasce come risposta ad un invito, o meglio, come risposta a una disponibilità a ricavare uno spazio pubblico per la situazione individuale di questo prigioniero. Dunque, da qui nasce la risposta come storia di vita, come autobiografia. Buon ascolto. Perché era già de sciuri per parlare a me. Me son messo al terrasas, ho cominciato ad andare già di scal, e ho sentito chi è sulla mia scena, ho capito l'era per te. L'ispettor era un bravo e sapeva no me cominciare faccio disgrazie. E chi lo ambiente? Voi sapete, ma ste vere sape cosa? Se arriva a destinazione, vedremi davanti loro e tu vista smorta de fa compassione ai sas sotto un brut lenzo bianco e te scere rapiti o senti strangio mel che stesca vei la stessa buca granda stessa detto in giro sempre la gente e mandi che t'han trovata sui bastion mi godi che la novera che te seret mingati mi godi la novera che te sere minga te prima di raccontare vari percorsi voglio partire dalla mia fascia adolescente di età. La mia famiglia era composta madre, padre e da 5 maschi e da 2 femmine. Parto da mia madre, da quando cominciò a lavorare. Lavorava nella fabbrica della Cacca con altre operaie. Il materiale che trattavano era i primi materassi gommosi bucherellati, quindi era facile che qualche operaia rimanesse intossicata. Alcune di loro, compresa mia madre, si ammalarono di bronchi di cui non potettero più lavorare. Mio padre allora era muratore, poi cominciò a fare uso di alcol dove divenne alcolista. Non ricordo tanto della mia adolescenza, ricordo però che venni portato dentro l'orfanotrofio di Modena, non so quali siano stati i motivi, se era dovuto per ragioni di conflitto tra mio padre e mia madre, perché mio padre non accettava il primo figlio di mia madre, che venisse a abitare all'interno del nucleo familiare, così dovette andare a vivere con i nonni e sorelle di mia madre. La struttura orfanotrofio non era una cosa piacevole, chi andava in quel posto o era un bambino difficile, oppure bambini senza una famiglia. Quando ci entrai, nel 67, venni nudato dai miei indumenti civili, dove vennero impacchettati e incasellati. Mi vennero dati indumenti dell'istituto. All'interno dell'istituto esigevano regole disciplinari molto severe. L'istituto non era gestito dalle suore, ma da educatrici, e l'unica suora che c'era aveva funzioni da direttrice. Lo studio era obbligatorio e se non eri attento allo studio perché eri troppo ribelle, quando ci recavamo in refettorio per pranzare non potevamo sederci. Chi era punito andava dietro la lavagna, con il volto verso la parete, a piacimento dell'educatrice. Tanti bambini, me compreso, siamo stati puniti. Le punizioni erano diverse, cioè a fare 10 flessioni che se ti fermavi iniziavi da capo, oppure le altre punizioni consistevano a stare in ginocchio ritti sopra il sale, nella sala di socializzazione in presenza di altri bambini. La sera era consentito guardare il telegiornale e finito il carosello a letto. Quelli che erano stati puniti gli consentivano di entrare nella sala TV ma non guardare la TV. Io e Walter avevamo un piccolo specchiettino, usavamo quello per guardare la TV a turno. La sera prima di recarci a letto tutti dovevamo lavarci i denti, mani e viso, puoi stare in piedi ai propri letti con le braccia in avanti per ispezione dell'igiene. Se nell'ispezione l'educatrice trovava le unghie sporche e le orecchie sporche, prendevamo 5 bacchettate o sul palmo delle mani oppure sulle dita delle mani. Dopodiché dovevamo stare in fila per 5, prima del rosario dovevamo marciare e quando l'educatrice diceva passo o doppio passo dovevamo battere i piedi e poi si ricorreva al rosario, cioè 5 Padre Nostro, 5 Ave Maria, eccetera. E poi dovevamo rompere le righe tutti a letto. Nella nostra camerata ci dormiva anche l'educatrice con un separé. Per le 7:15 dovevamo essere tutti in piedi a fare ognuno il letto, lavarci, vestirsi e ripregare. Poi sempre in fila per uno ci recavamo a far colazione. E dopo la colazione a scuola. Finalmente toccò anche a me andare a casa. Giunto l'educatrice mi consegnò ad un uomo che mi disse di essere mio padre e che avrei conosciuto i miei fratelli. Mi fecero uscire su prova grazie a mia nonna materna che mi diede il suo cognome, perché i miei fratelli portavano il cognome della madre. Nello stesso momento mio padre con un'altra donna mise al mondo uno o due figli, uno che tra lui e me ci corre un anno, io 63 anni e lui 62, figli dello stesso madre ma non della stessa madre. Dopo più di 40 anni riesco a contattare mio fratello per telefono, ci siamo parlati ma mai visti. Uscii dall'orfanotrofio nel 1970. Le mantellate sate le suore, ma Roma sa soltanto celle scure, una campana suona tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta ste mura, ma che parla da fa, ma che parla da fa, qui dentro c'è sta solo infamità. Hanno scritto sulla facciata di un convento vecchio, un sacco di vai al bosco, questo letto, mezza bagnotta e l'acqua, 30 arzecchio, le mantellate sa delle suore. Roma sa soltanto gelle scure, una campana suona tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta 30 ste mura, ma che parla da fa, ma che parla da fa, qui dentro c'è sta solo infamità. Nell'amore abbi fede ci hanno detto, domenica mattina alla funzione, 3 mesi che mi sveglio e che t'aspetto, 100 anni che sei chiuso sto burrittone. Le mantellate so delle suore, ma Roma so soltanto celle scure, una campana suona a tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta 30 ste mura, ma che parla da fa, ma che parla. parla da fa. Qui dentro c'è sta solo infamità. Uscì dall'orfanotrofio nel 1970. Tutti noi del lucro familiare dormivamo dentro una roulotte di appena 6 metri per 5. Il letto matrimoniale era fatto artigianale, noi dormivamo sotto il letto con un grande materasso di lino sul pavimento. Beh, la mamma di mio padre era etnia sinti piemontese, che da giovane, come mio padre, lavorò nel circo di Moira Orfei. Così mio padre venne arrestato nel 1972 per rapina mano armata in un convento dei frati, dove fu condannato ad anni 7. Vivendo nel più assoluto degrado e povertà, mia madre aveva sulle sue spalle una responsabilità, quella di cercare di sfamarci, ma nello stesso tempo pensare anche a mio padre in carcere. Per quanto poteva essere mia madre, si ammalò di esaurimento nervoso. Andava a chiedere la carità, che non portava nessun grosso guadagno, massimo 30-40 mila lire. Capii la situazione e decisi di interrompere lo studio. Anche se non avessi voluto rubare, sono stato costretto a vivere nella non legalità per circostanze di cose di cui non mi pento. Mi ero specializzato in furti di appartamenti, furti nelle tabaccherie e scippi. Mi unì con alcuni ragazzi sinti, dove si venne fermati a un posto di blocco e nella perquisa, all'interno dell'auto, venne rinvenuta una pistola e tutti denunciati per banda armata. Nessuno di noi pensava di acquistarsi vestiti firmati con il facile profitto del guadagno. Pensavamo alle nostre famiglie. A differenza di oggi, alcuni sinti di nuova generazione utilizzano i fondi per la droga, vestiario firmato, belle macchine. Pensano di essere borghesi, senza rendersi conto che per essere borghesi si nasce e non si diventa. Staccatomi dal gruppo, nel 74, dopo essere stato portato in caserma, accusato per tentato furto in un benzinaio, non venni perquisito, così entrai in carcere dei minorenni con una pistola P38 e munizioni, dove subito acquisii il soprannome pistolero. Beh, fu un allarmismo per l'autorità giudiziaria, ma nello stesso tempo scalpore per i prigionieri minorenni. Oltre al mio continuo frequentamento nel carcere minorile, collegi di educazione più volte evaso e riformatorio, anche qui più volte evaso, nel 1976 entro nel mondo adulto, per un reato continuato, scippi e furto d'auto, dove venni condannato ad un anno e mezzo e 2 anni di casa lavoro. Nel 1977 vengo trasferito nella casa di Saliceta a Modena e lì ci fu un tentativo di sommossa. Vengo trasferito alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia. A piano terra c'erano le celle, al piano di sopra i cosiddetti cubicoli, molto stretti, privi di suppellettili, bagno, tavolo, c'era solo una branda che si chiudeva in 2 pezzi e come bagno usavamo i buglioli o secchi. Non era più sostenibile di vivere a quel modo, sentivo le lamentele di altri internati e a quel punto io proposi la mia unica soluzione, quella di mettere in atto i fatti, senza ricorrere ai soliti piagnistei e petizioni con raccolte firme. L'unica soluzione era quella di mettere inagibile tutto il reparto, rompendo impianti elettrici, caldaia, eccetera, ma c'era un problema, come venire in possesso delle chiavi del reparto. Nel reparto attaccato alla parete c'era una scatola di legno che all'interno c'era un piccolo coltello che avevamo libera autorizzazione di farne uso e poi depositarlo. Quindi ne feci parola con altri internati quale fosse stato il mio piano. Dopo aver sentito la condivisione, presi il coltello e presi il mazzo delle chiavi e feci scendere dalla sezione la guardia per far dire che entravamo nella rivolta. Così iniziamo a demolire tutto e buttare giù per le scale 2 stufette di ghisa a carbone, compreso la statua della Madonna. Sotto già c'era l'antisommossa. Parlai il motivo del perché, ma ormai non era evitabile le manganellate. Essendo io stato come promotore, la peggio l'ho avuta io. Dopo tanti anni quel reparto è ancora chiuso, perché sembrerebbe che verrà ristrutturato per farci altre cose, forse un reparto sezione protetta. E fui trasferito all'isola di Pianosa e da Pianosa a Capraia. Uscii nel 1978, trovai un lavoro come barista apprendista. Superati 6 mesi mi dissero che non ero idoneo a quel mestiere. Licenziato. quell'anno, marzo-aprile 78, compì un attentato all'interno di una pensione a Firenze perché sapevo che alloggiavano alcuni dell'estrema destra e contro un benzinaio sullo stradone di Scandicci. Era appena successo il sequestro di Aldo Moro, lascio a voi pensare che clima poteva esserci. Vengo arrestato con l'accusa di 2 attentati incendiari e omicidio di un carabiniere. Nella perquisa domiciliare vengono sequestrate varie lettere di prigionieri rivoluzionari e vi sembra assurdo come hanno potuto contestarmi l'omicidio di un carabiniere perché, come dissero nel quotidiano La Nazione, venne cerchiato sull'immagine del carabiniere. Dopo il mio arresto La Nazione intitolò l'articolo «Prima fa il barista e di notte fa il terrorista». Nel mandato di cattura mi si contestò la finalità del terrorismo rosso. Dal carcere delle Murate venni trasferito nel carcere di San Gimignano e poi a Volterra. Venni poi trasferito a Pisa e da Pisa nuovamente alle Murate. Nell'80 iniziò il mio processo in corte d'assise a Firenze. Venni assolto con formula dubitativa per l'omicidio del carabiniere e condannato per altri reati a 50 milioni di lire. Ritorno a essere riarrestato a Firenze, fui condannato a 6 anni dove uscii nell'88. Non ero proprio libero come avrei creduto, perché uscii con la libertà vigilata. Una domenica andando a firmare venni bloccato dai carabinieri in borghese nel centro di Firenze. Non capii cosa fosse successo, solo in caserma mi venne notificato l'avviso di garanzia per aver compiuto attentati incendiari tra aprile e maggio 88. Poi mi venne contestato l'articolo 270 bis, associazione sovversiva come aderente ai nuclei proletari, resistenza attacco, NPRA. Uscii dal carcere speciale di Voghera nel 1991, prosciolto dubitativo in istruttoria. Nel 1997 riarrestato per attentato incendiario contro mezzi industriali di una società che vinse l'appalto per la costruzione del carcere sul Licciano, con l'aggravante della finalità di terrorismo, dove venni condannato ad anni 5 pena confermata in appello. Nell'insieme delle condanne subite, che poi andettero definitive, dovevo scontare 12 anni. Poi si aprì un'altra indagine dalla Procura di Firenze per associazione sovversiva di matrice anarchica, che fu archiviata, e un'altra archiviazione fu messa perché ero indagato per aver inviato un plico esplosivo all'ex prefetto di Firenze. Ancora di più, colapa, questa è la marcia degli incazzati, questa è la marcia degli arrabbiati, smetti d'andare a lavorare, sai di che perché, dimmi perché, ma da incazzare, tutti incazzati, tutti arrabbiati, ma finalmente degli intervenienti, ce n'è uno calmo, indo, eccolo lì, fallo incazzare e poi gridagli così, colapa, questa è la marcia. Perché mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, e mi cazzo, che è nato carne e via chimica, dove vivo è l'unica cosa che tu sanno dare. Il richiamo del tuo io non lo puoi ignorare. Il richiamo del tuo io, unica voce da ascoltare. Prima della conclusione di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che termina tra pochissimi minuti, è un programma che va in onda ogni giovedì qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20:10 alle 21:30 appunto. Allora, volevo anche ricordare i nostri contatti, che innanzitutto, se volete anche riascoltare questa trasmissione, ma anche quelle scorse, potete collegarvi con ovviamente la rete, e il nostro blog è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Mentre se ci volete scrivere, la nostra casella postale, ovviamente sempre mi riferisco alla rete, ovviamente a internet, c'è questa mail liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org. per chi invece volesse scriverci col classico sistema cartaceo, può farlo attraverso appunto quest'altro indirizzo, ovviamente, associazione senza sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste. Ripeto anche questo, associazione senza sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste. Ciao a tutti e al prossimo giovedì. Io sono Digos naturalmente, a futura memoria sono Digos da sempre. Io sono Digos personalmente e lascio a verbale, sono Digos per sempre. Porto il borsello dietro la schiena, dondola il puma nell'area urbana. Fermata San Giovanni, fermata Re di Roma, tu porti il ferro nel perizoma. Secondo piano, fotocopiatrice rotta, vado in Marocco, sono di scorta. Quando non funziona e quando manca la carta, mi serve il modulo per la trasferta. La targa non ricordo, ma chi minchia controlla. Sono in Marocco, siamo di scorta. Oggi la Hyundai ce l'hanno sospesa. Sto sull'appunto con la collega. Deflagrazione in atto a poca distanza. Sono cose di lavoro, ci vuole pazienza.